Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Nel 92 il suo fu un caso editoriale. Con La bruttina stagionata, Carmen Covito ebbe un successo straordinario. Ora la scrittrice napoletana è in libreria con Le ragazze di Pompei, pubblicato da Barbera Editore. Una storia ambientata nel 63 d.C. a Pompei, ma con dei personaggi che sembrano assolutamente attuali. Sentiamo Carmen Covito, intervistata da Anna Rita D'Ambrosio. In realtà, secondo me, la storia antica è attuale. Dipende dagli occhi con i quali la guardiamo. E secondo me ci sono delle affinità, dei cortocircuiti abbastanza particolari tra l'epoca neroniana e la nostra. Pensiamo soltanto alla corruzione dei politici, pensiamo soltanto agli appalti truccati e così via. La spazzatura nelle strade, per esempio. Ecco, Pompei nel 63 d.C. stava uscendo da un terremoto, quindi era una città terremotata, in ricostruzione e in grande caos, però molto viva. Voce narrante Tirrena, che dice: due mariti, tre figli, nessuno dei quali è mio. Questo personaggio. Ma Vibia Tirrena era figlia di un libraio, quindi è una donna intellettuale, cosa rara all'epoca ma non insolita. Cioè esistevano le donne intellettuali, esistevano le donne imprenditrici, lei è anche bottegaia, cioè cerca di vendere libri oltre che insegnare alle ragazze, e a Pompei ce n'erano tante. Quindi mi piaceva l'idea di mettermi nei panni di questa donna che è un po'... avete presente quell'immagine della ragazza con la reticella sui capelli, una tavoletta, scrittoria in mano e lo stiro e un'aria concentrata? Ecco, quella è Vibia Tirrena. L'ho fatta uscire dall'affresco per vedere cosa faceva nella vita quotidiana. Lei è il personaggio principale, però abbiamo detto che gli spunti di attualità sono tanti e abbiamo detto che è un libro che sta interessando molto le donne, però si affronta anche un altro tema quanto mai attuale, gli omosessuali. Questo è un tema che mi intrigava parecchio, perché ci sono delle idee sbagliate sulla sessualità nell'antica Roma. Cioè si pensa appunto a un sesso sfrenato, libero, eccetera. Un momento, ci sono stati fatti degli studi, per esempio quelli benissimi di Eva Cantarella, che ci dicono che le cose non erano esattamente così. C'era una sessualità diversa dalla nostra, mentalmente diversa dalla nostra, perché non c'era il senso del peccato, ma c'era il senso della convenienza sociale, per cui anche l'omosessualità era ammessa, ma non tra pari. Quindi con uno schiavo andava benissimo, ma con un uomo della stessa età o della stessa cultura sociale era visto malissimo. E quindi io immagino una situazione in cui Vibia Tirrena sposa il suo amico d'infanzia per dargli una copertura sociale. L'altra protagonista è Rubria, che è un personaggio invece realmente esistito. Rubria compare in un testo di Svetonio, nella vita appunto di Nerone, e compare per dare una connotazione ulteriormente negativa al ritratto che di Nerone fa Svetonio. Dice semplicemente: e addirittura violentò una vestale, Rubria. Non dice altro, però su queste tre parole sono stati fatti parecchie invenzioni narrative. Per esempio anche Boito aveva parlato di Rubria nel suo Nerone, e io invece ho immaginato una storia diversa. Ho immaginato che questa vestale in realtà si è innamorata di Nerone, perché poi non era così cattivo come lo dipingono. Quanto c'è di vero? Abbiamo accattivato i nostri ascoltatori con questo raffronto tra il passato e il presente, ma all'interno del libro Le ragazze di Pompei, quanto c'è di vero e quanto c'è di inventato? Ma sicuramente tutta la vicenda è inventata, però è un'invenzione basata su una seria documentazione, perché io non trovo interessanti i romanzi storici che non siano attendibili. Cioè tutto deve essere verificato, e in questo caso io ho una fortuna particolare, perché sono nata lì, sono nata vicino a Pompei, sono nata a Stabia, per Castellammare di Stabia. È una cosa che mi porto dentro, quindi è come quando si impara a tirare con l'arco. Cioè finché guardi dove deve andare il bersaglio non lo cogli mai, ma quando diventa naturale, quando lo interiorizzi, puoi non guardare il bersaglio e compirlo. Ecco, io ho fatto un po' così, cioè per anni e anni ho studiato un argomento, mi sono imbevuta di Pompei e poi ho cominciato a fantasticare. Fantasticare, però, lo abbiamo detto, i protagonisti del libro hanno problemi di oggi e vivono situazioni come quelle di oggi. È il linguaggio che è quello di oggi. Cioè, io ho preso come riferimento, si dice abbondantemente nel libro, in Satiricon di Petronio Arbitro, perché è un libro che ho sempre adorato, è all'origine della narrativa europea. E ha questa caratteristica proprio, cioè di mescolare i registri linguistici. Quindi c'era parte aulica, togata, poetica, e c'era parte comica, c'era parte di lingua quotidiana, di volgare quotidiano. Ecco, io ho fatto la stessa cosa, quindi la mentalità dei personaggi è quella dell'epoca sostanzialmente, però il linguaggio è quello di oggi e le sensazioni sono universali. Hai spiegato, io sono napoletana, hai spiegato di essere di Stabia, quindi la scelta della città di Pompei non è stata casuale, perché poteva essere ambientato anche a Roma, vista l'ambientazione, no? No, Pompei, Ercolano e Stabia sono una capsula del tempo meravigliosa, perché molto più di Roma, perché Roma è contaminata, è contaminata dalla modernità, è una stratificazione affascinante, ma è una cosa diversa. Invece Pompei, Ercolano e quel po' che rimane di Stabia sono veramente un'immersione nella quotidianità antica. Quindi è per questo, non per le origini personali, no? No, le origini personali mi hanno dato l'occasione di impadronirmi di questa capsula del tempo. Meglio di altri, ovviamente. Quindi l'idea come nasce? L'idea nasce tantissimi anni fa, ma neanche 20 anni fa, 40 anni fa. Cioè, io ricordo che ero in Spagna, stavo lavorando in un ufficio che stava per chiudere, non avevo niente da fare e usavo la macchina da scrivere della segretaria per scrivere tentativi di romanzi, ed era un romanzo ambientato a Pompei. Poi, dato che sono molto autocritica, butto via tutto sempre, e quindi ho fatto tanti incipit diversi nel corso degli anni, ho buttato sempre via tutto. Alla fine è arrivata l'idea del Satiricon, e quindi di fare un Satiricon al femminile, e ho risolto i miei problemi stilistici. Appassionata, Carmen Covito, di archeologia e di testi antichi, lo abbiamo detto. Quindi questo libro è anche frutto di grande studio, di documentazione? È frutto di grande documentazione, ma di grande passione soprattutto, perché l'archeologia è una delle cose che mi hanno sempre interessato. Infatti ho scritto un romanzo ambientato su un campo archeologico in Siria, e sono stata su un campo, naturalmente. Questo è un romanzo che è uscito nel 2002 ed ero stata 5-6 anni insieme ad archeologi, vedendo come si lavorava effettivamente, in quali circostanze, in quali situazioni. E tra l'altro adesso sono molto preoccupata per quel sito in cui ho lavorato, per la situazione siriana, naturalmente, era proprio vicino a Homs. E niente, per quanto riguarda Pompei, la conosco, potrei fare la guida turistica. E questa era Carmen Covito con il romanzo Le ragazze di Pompei. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.